Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Elegantissimi, intelligentissimi, genialissimi, tanto che forse questo paese non ci merita. Ho vinto una borsa di studio, vado a fare biomedicina, sai, vado ad Oxford. Davvero che... Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Uno spezzone del trailer del film Fuga di cervelli in sala tra pochi giorni ci porta con molta ironia in un tema che, come ben sappiamo, è molto più serio e grave di quanto gli stereotipi ci abbiano fatto credere fin nel recente passato. Anche le istituzioni l'hanno ormai compreso, pur con imperdonabile ritardo. La frase della settimana è copyright del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il tema della fuga dei cervelli all'estero, su questo bisogna anche superare una certa tendenza al luogo comune, farne un'etichetta puramente negativa, intanto non comprendendo bene da quali condizioni reali nasca questa tendenza o questa esigenza di portare fuori d'Italia il proprio talento. Essenziale è sentire il richiamo del paese, la necessità del ritorno ed essere messi in condizione di poter tornare, considerando ciò un'ambizione e non un sacrificio. Menzione speciale oggi per gli studenti della Italian Society della London School of Economics, giovani che non vogliono essere considerati in fuga, ma parte della costruzione del futuro dell'Italia. A Londra hanno incontrato il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, al quale hanno consegnato una lettera in cui chiedono di partecipare all'affermazione di un nuovo sistema che li veda come risorsa e chiedono che l'Italia faccia scelte coraggiose. Saccomanni ha riconosciuto che moltissimi ragazzi vengono nel Regno Unito a cercare un lavoro, per questo si sta pensando a programmi delle ambasciate per aiutarli. Noi da Londra ci spostiamo a Cracovia, da dove arriva un'ulteriore sferzata al sistema Italia. Secondo me manca davvero la volontà di liberalizzare quanto più possibile in ogni settore. In tempi di crisi anche una fiammella di iniziativa privata dovrebbe essere stimolata e per stimolarla basta rimuovere le leggi, i regolamenti che bloccano in ogni passaggio nella creazione di un'azienda. Stefano Iannucci, 31 anni, è uno start-upper in Polonia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Quasi 2 milioni di offerte di lavoro in Europa attraverso il portale Eures sono i nuovi dati resi noti dal Sole 24 Ore. In testa per annunci la Gran Bretagna, quasi 1.200.000, seguita da Germania e Belgio. Meccanica e metallurgia, servizi a privati e ambiti tecnici offrono le maggiori chance di impiego. Maggiori info a ec.europa.eu/Eures. E le aziende tedesche cercano 62.000 ingegneri, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, citando la VDI, Associazione Tedesca degli Ingegneri. Per gli italiani, privilegiati neolaureati che parlino inglese e tedesco. In Germania un neolaureato in ingegneria elettronica può ambire a un primo stipendio da 42.000 euro lordi. I giovani italiani si sentono lasciati soli. L'Italia non incoraggia né sostiene gli scambi con i paesi esteri, ma loro all'estero ci vogliono andare comunque, per necessità più che per curiosità. Lo denuncia un'indagine presentata allo Young International Forum di Roma. Il 91% dei giovani interpellati andrebbe a studiare all'estero e ben il 55% lo farebbe per necessità. I ragazzi si sono dimostrati critici nei confronti delle politiche di internazionalizzazione del bel paese. Per il 71% l'Italia non favorisce gli scambi culturali. Conferma la Fondazione Intercultura, solo il 53% delle scuole italiane attiva almeno un'iniziativa per portare a studiare oltre confine i ragazzi, in Germania solo il 97%. La necessità di espatrio per lavoro appare intanto a fronte della crisi economica inevitabile, ne è consapevole l'89% dei giovani. Ci sono 1,2 milioni di disoccupati in più in Italia rispetto al 2007, lo indica il documento sul piano Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro. E allarme proprio per i giovani, in controtendenza la fascia senior. I giovani che non studiano né lavorano sono 1,27 milioni, il 21% della popolazione di questa fascia. Lo sospettavamo, ma ora ne abbiamo la certezza. Più un paese è corrotto, più crescono le probabilità che i migliori espatrino. A constatarlo due ricercatori italiani, Andrea Riu e Mara Squicciarini del Dipartimento di Economia dell'Università Cattolica di Lovagno, in Belgio. L'Italia costituisce un caso di studio. Sentiamo Mara Squicciarini. La corruzione pesa tanto sulla fuga dei cervelli, però quello che emerge anche dalla nostra ricerca è che è importante in un mercato del lavoro mobile e flessibile come quello del XXI secolo, è che la corruzione pesa anche nell'attrarre i cervelli. La corruzione quindi costa, è un costo, anche in termini di talento. Un costo. Sì, è decisamente un costo. Ci sono delle interessanti tabelle, corredo della vostra ricerca, nel quale si vede l'Italia insieme a Corea, Messico e India come un paese che ha dei problemi di corruzione e ha anche un saldo netto negativo tra cervelli o talenti che escono e cervelli e talenti che entrano. Sì. Ci può spiegare meglio questo schema raccontandocelo? Vediamo che nei paesi in cui c'è più corruzione c'è anche una perdita netta di cervelli, quindi abbiamo paesi come il Messico, la Corea, l'India e tristemente anche l'Italia che hanno un livello di corruzione abbastanza alto, hanno più emigrazione di cervelli rispetto all'immigrazione. E ci sono paesi come Germania, Francia, Stati Uniti e Canada con un minor tasso di corruzione che invece hanno un saldo netto assolutamente positivo. Positivo. La nostra analisi è agghiacciante anche perché l'Italia si trova tra i paesi in via di sviluppo, si trova più o meno... Insomma, praticamente, sì. Sì, praticamente sì. Saranno presentati venerdì 22 novembre a New York i volumi Primi 10 e Primi 10 Under 40, libri curati da Riccardo Lofaro, che raccontano le personalità italiane di maggior successo negli Stati Uniti. Lofaro ci anticipa chi sono i nostri Under 40 più rappresentativi d'America. Sono tutti nati in Italia, a parte un caso, sono in varie città americane, sono persone che hanno lasciato l'Italia sempre comunque, almeno con una laurea di ottima preparazione, ma con un inglese base, e che hanno avuto il coraggio di entrare nel sistema americano, nel sistema un po' meritocratico americano, e farcela ottimamente. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a Est. Oggi scopriamo come i nuovi paesi dell'Unione Europea, ancora freschi di cambiamento post-socialista, rappresentino un ambiente dinamico e giovane dove poter fare nuova impresa. In Italia, in Italia le cose sono ancora un po' diverse. Nome: Stefano. Cognome: Iannucci. Età: 31 anni. Città di origine: Frosinone. Studi: laurea in scienze della comunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: gennaio 2012. Per andare dove? A Cracovia, in Polonia. Perché? Per creare un'azienda turistica. Quale lavoro svolgi attualmente? Imprenditore. Dove? A Cracovia. Tornerai? Ancora non è in programma un rientro fisso in Italia. I giornali italiani titolano Polonia Eldorado per le aziende italiane. Penso dovrebbero titolare invece L'Italia lascia fuggire il lavoro. Così Stefano ti sei presentato con una considerazione d'impatto a Giovani Talenti @radio24.it. Per una volta operiamo con te un ribaltamento di prospettiva. Non parliamo dell'espatrio di talenti qualificati in cerca di lavoro, ma di chi quel lavoro lo vorrebbe creare in modo innovativo. Al di là delle mode e dei trend, l'Italia secondo te è un paese per startup? L'Italia sicuramente è un paese con un tasso di imprenditorialità molto alto, cioè creatività, voglia di fare, si vede in ogni posto. D'altra parte dobbiamo rivelare che il sistema paese cerca in tutti i modi di porre ostacoli alla creazione di nuove aziende. Quindi, ahimè, direi che l'Italia al momento non è un paese per startup. Tra poco ci torniamo, ma iniziamo dalla tua storia, che prende le mosse con una laurea 110 e lode alla Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza di Roma. Cosa ti porta su quella strada? Quali erano i tuoi obiettivi di carriera? Ma negli anni dell'università non avevo ancora degli obiettivi di carriera ben definiti, ero però interessato alla comunicazione, al marketing, alla pubblicità. Sentivo dentro di me comunque la voglia di voler fare impresa. E di quegli anni ricordi in particolare le lezioni dentro ai cinema, causa sovraffollamento delle aule, e i tuoi primi passi nel mondo del giornalismo. Ma se dovessi dare tu un voto all'università italiana da 1 a 10? L'università italiana al tempo era, o in particolare la mia facoltà, era veramente male organizzata, ma allo stesso tempo ho trovato, ricordo, dei professori di qualità altissima. Quindi se dovessi dare un giudizio complessivo probabilmente darei un 6, una sufficienza. Conclusi gli studi ti guardi intorno, inizi con una compagnia telefonica come commerciale per i servizi di telefonia, poi passi ad essere consulente informatico fino al ruolo di specialista web e comunicazione online per una terza azienda. Allora, quale ricordo ti ha lasciato l'Italia in termini di opportunità di lavoro per un giovane neolaureato? Secondo me le opportunità non mancano ancora oggi in Italia. Il problema è per chi vuole fare impresa, qui iniziano le difficoltà. Io ricordo che mi hanno chiesto molto, ma erano sempre stati disponibili a valorizzarmi. Sperimentai in questi lavori come le aziende utilizzavano internet quale canale privilegiato nella vendita. Fu allora che decisi di mettermi in proprio, ricordi. Intorno a te tutti ti consigliano di lasciar perdere. Allora ti chiedo, culturalmente questo è un paese che, esclusi i giovani che sono già figli di imprenditori, insegna agli altri giovani a fare impresa o li scoraggia? Penso che gli scoraggia. scoraggi, nel senso che l'approvazione sociale per l'imprenditore è e resta molto alta, però nel momento che bisogna iniziare, quindi è quando c'è più bisogno di una spinta esterna, della famiglia, degli amici, lì si rimane veramente soli, e questo è quello che poi porta tante persone, casomai per paura, a rinunciare ai propri progetti. In breve, ci spieghi qual era l'idea di impresa innovativa che avevi sviluppato nel campo turistico? Volevamo creare un tour operator per organizzare direttamente dei pacchetti di viaggio in destinazioni nuove, disintermediando rispetto ai canali tradizionali ed innovando rispetto alla modalità di vendita, che doveva avvenire attraverso un sito internet. La tua avventura imprenditoriale in Italia dura lo spazio di pochi mesi. In realtà, diciamolo, non è mai partita. Ricordo ancora l'appuntamento all'ufficio del turismo della provincia di Frosinone. Era il giugno 2011. Ne rimasi scioccato. Ricordi così quella tappa che segnò la tua vita. Allora, vogliamo spiegare, così lo facciamo capire anche a chi ci ascolta, le sei kafkiane condizioni che ti furono imposte per aprire la tua azienda in Italia? Avrei dovuto costituire la società SRL ai costi italiani, 10.000 euro, il notaio e così via, vari pagamenti per avviare l'iter per l'ottenimento delle licenze, una stipula di un'importante assicurazione, un deposito cauzionale presso la provincia di 20.000 euro, l'obbligo quindi di avere una sede fisica aperta al pubblico, non condivisa con altre attività. Il fatto che lavorassimo online non era per loro minimamente importante. E infine la presenza di un direttore tecnico di agenzia, una figura particolare che richiede l'iscrizione ad un albo e che richiede gli anni per poterla davvero avere internamente. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Queste erano condizioni che non potevo sostenere. Provai così all'estero, insieme a Casi e alla mia compagna abbiamo optato per la Polonia, il suo paese di origine. E allora, cosa vi è bastato a Cracovia per aprire una società, soprattutto in quanto tempo? Sì, a Cracovia SOS Travel è nata in 30 giorni. Appena arrivati abbiamo preso contatto con una società di consulenza con la quale abbiamo redatto lo statuto, preso contatti con il notaio, l'interprete, e quindi in 30 giorni e meno di 2.000 euro eravamo attivi. Operativi. E due anni dopo cos'è diventata la tua azienda SOS Travel? Siamo un'azienda in crescita che impiega 5 persone all'interno, una decina di collaboratori esterni, abbiamo in Italia un network di circa 80 agenzie. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Stefano Iannucci, 31enne startupper a Cracovia, in Polonia. Stefano vi giunge dopo una laurea in scienze della comunicazione, prologo necessario all'avvio di un iter professionale. A un certo punto, sulla base delle competenze acquisite, Stefano decide di mettersi in proprio, avviando una startup innovativa nel campo del turismo. A scoraggiarlo a prendere qualsiasi iniziativa in Italia, provvede un incontro alla provincia di Frosinone, tutto troppo costoso e burocratico. Stefano non ci pensa due volte, con la compagna polacca si trasferisce a Cracovia dove fonda SOS Travel. Due anni dopo la sua azienda è una realtà affermata in crescita grazie anche a un ecosistema che gli ha fatto aprire bottega in 30 giorni e con soli 2.000 euro. Ci raggiunge ora in linea Luigi Capello, fondatore dell'incubatore e acceleratore d'impresa Elabs. Buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. È stato triste scoprire quanto è difficile fare impresa in Italia. Chissà quanti altri nelle mie stesse condizioni avranno deciso di emigrare e quanti di abbandonare scoraggiati la propria idea, scriveva Stefano a giovanitalenti@radio24.it. Luigi, lei personalmente quanti ne ha visti in questa condizione di giovani imprenditori? E ne approfitto anche per ricordare che proprio questa settimana lei ha partecipato a un summit dei nostri start-upper all'ambasciata di Berlino. Sono stato a questo summit all'ambasciata di Berlino, dove sono state messe in mostra, in questo caso, più le potenzialità del nostro sistema. Comunque direi questo: da noi passano tantissimi ragazzi che vogliono fare impresa, ed effettivamente posso dire che stiamo creando dei giovani pronti per l'esportazione, perché in questo momento la qualità dell'inglese, che diceva Stefano, che magari non viene insegnata, però ormai ci si rende conto che senza inglese non si va da nessuna parte, e senza coding, per quanto riguarda chi fa startup, non si va da nessuna parte, perché è necessario apprenderlo. E quello che vediamo è che molti ragazzi che cominciano magari startup in Italia purtroppo vanno fuori, anche perché ci sono dei salari e delle condizioni veramente molto molto interessanti. Il trade union tra lei e Stefano è Elabs, incubatore e acceleratore d'impresa che lei stesso ha fondato e da quest'anno in partnership anche con l'Università LUISS. Stefano è uno dei giovani che col vostro aiuto ha provato a fare impresa in Italia, poi però ha preferito andarsene, scoraggiato non tanto da voi ma dal sistema paese. In breve, cos'è Elabs e in cosa si differenzia da un normale incubatore? Siamo un acceleratore. Qual è la differenza allora tra incubatore e acceleratore? L'incubatore è quello che sa forse, diciamo, diciamo così, nella fase precedente in cui fa crescere l'idea, l'acceleratore è quello che invece lancia le idee sul mercato. Siamo un acceleratore con una grande visione del mercato. Chi viene da noi nel giro di 5 mesi deve terminare il proprio prodotto di sviluppo e cominciare a vendere. Infine noi mettiamo risorse finanziarie, mettiamo 30.000 euro e prendiamo il 10% del capitale. Chi sono i giovani che si rivolgono a voi per fare impresa, ma soprattutto quanto sono diversi questi nuovi imprenditori della classe dirigente imprenditoriale che ha caratterizzato finora il nostro tessuto produttivo? Il nostro è l'ambito digitale, per cui normalmente sono ragazzi, dico più o meno giovani, che hanno questo tipo di competenze. Sicuramente c'è una profondissima diversità tra l'imprenditore moderno e l'altro tipo di imprenditore. Questo imprenditore normalmente sa molto bene l'inglese, ha appreso durante gli studi universitari tante cose, per cui è un imprenditore molto preparato. Poi, come possiamo sapere, chi opera oggi nel digitale opera in tutto il mondo, per cui c'è un'apertura mentale che viene acquisita. Speriamo contagino anche il vecchio tessuto produttivo, globali, internazionali, dinamici. Assolutamente, oggi c'è un grossissimo interesse della media industria, piccola, media, grande industria italiana verso l'innovazione, e quello che stiamo facendo noi sono dei programmi proprio per far sì che l'industria italiana sia contagiata con questa rivoluzione digitale, questa, diciamo, rivoluzione verso il futuro. Lei condivide il giudizio di Stefano sul fatto che la politica industriale italiana, se c'è mai stata negli ultimi anni, ha fatto troppo poco e troppo tardi per questo nuovo mondo? Assolutamente, assolutamente. Diciamo, si è fatto, dal punto di vista politico, si è fatto veramente, veramente poco. Solo negli ultimi anni c'è stato questo decreto sulle start-up, questa legge sulle start-up, a cui mancano ancora una serie di regolamenti, per cui noi ci auguriamo che il governo intervenga una volta per tutte, però in modo serio. Non è che si fa una legge senza regolamenti, bisogna fare la legge e i regolamenti. Allora così si può avere un framework dove si può operare. Un'altra cosa interessante che sta facendo il governo è questa legge per attrarre in Italia imprenditori internazionali, però anche lì il mio avviso è che ci vuole una legge e regolamenti attuativi immediati, non che passino anni tra una e l'altra, perché se no, se non c'è regolamento, come sappiamo in Italia, la legge non ha nessun valore. Grazie a Luigi Capello. E domanda di rito per Stefano Iannucci: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Consiglio che ho dato a mio fratello in una situazione analoga, ovvero di leggere il bellissimo libro di Hoffman, il fondatore di LinkedIn, Teniamoci in contatto. Capirà l'importanza del proprio network e da lì potrà trovare la forza e la motivazione per andare avanti. Se poi vedrà, scoprirà che ci sono delle opportunità all'estero, che prepari le valigie senza preoccupazioni e a cuor leggero. L'Italia all'estero è molto forte e quindi non si sentirà solo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un manager Europa ed Africa per Heart Energy Research and Consulting a Bruxelles, scadenza per i CV domani, info su heartenergy.com. Un ingegnere dei sistemi di pressione per Hacker Solutions ad Aberdeen, in Scozia, scadenza per i CV 25 novembre, info su hackersolutions.com. E infine uno scienziato junior che diriga il gruppo di ricerca sui meccanismi biologici di invecchiamento al Max Planck Institute di Colonia, Germania, scadenza per i CV dopodomani, info su age.mpg.de. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi tappa cinese per la nostra rubrica. Andiamo a indagare un mondo molto particolare, quello delle comunità di professionisti italiani in Estremo Oriente. Sono mediamente giovani, avidi di esperienze internazionali, globali nel modo di pensare. Qualche mese fa abbiamo scoperto un gruppo che ruota attorno al comprensorio di Suzhou. Federico Bonotto, tra i fondatori del Suzhou Working Group. Il Suzhou Working Group nasce nel 2006 per una necessità reale che avevano le aziende italiane che erano presenti qua a Suzhou. E ora raggruppate i migliori professionisti manager italiani in Cina, è corretto? Raggruppiamo sicuramente tra la maggior parte delle aziende che sono presenti qui nello Jiangsu, sì. Che tipo di professionisti raggruppate? Si tratta di aziende italiane, manifatturiere, e i membri che fanno parte del Suzhou Working Group sono tutti quanti general manager oppure presidenti delle aziende italiane. Che età media hanno? Età media, diciamo, un 40 anni. Quindi tutti giovani in termini italiani, potremmo dire. Sì, sì. Perché avete scelto la Cina? Sicuramente per una questione di opportunità, perché senz'altro il fatto di aver davanti l'opportunità di andare in un paese così distante, così in fase esplosiva di sviluppo, e aver davanti tante opportunità per poter crescere molto più velocemente che magari in Italia, questo qui sicuramente è stato uno dei buoni motivi che ha spinto molto. In che senso si cresce più velocemente? Concretamente si tagliano molto le tappe, nel senso che all'estero si riesce a saltare molte più tappe rispetto che all'Italia, perché la meritocrazia all'estero e nei paesi fuori dall'Italia c'è un valore molto più elevato che in Italia. Si riesce ad affermarsi molto più velocemente rispetto all'Italia, perché magari ci sono più poltrone libere. È una prospettiva che vi stuzzica quella di tornare in Italia, oppure meglio restare all'estero? Dire tornare in Italia adesso no, non ho la minima voglia né intenzione al momento. Per maggiori informazioni potete cliccare su linkedin.com cercando il Sociu Working Group. Un motivo per restare o tornare. Buone notizie dal rapporto OCSE sulla nuova imprenditoria. In fatto di creazione di start-up e nuove imprese, l'Italia ha battuto la Germania, il maggiore attivismo si registra in Francia e secondo Unioncamere in Italia sono nate quasi 13.000 SRL da un euro, le società pensate per gli under 35, Lazio e Campania in testa alla classifica, seguite da Lombardia e Sicilia. Sempre secondo Unioncamere, dall'inizio dell'anno un esercito di giovani ha deciso di tentare la carta dell'impresa, delle quasi 300.000 aziende nate entro settembre, oltre 100.000 hanno la guida under 35. Infine, secondo Confesercenti, nel terzo trimestre quasi due terzi delle nuove imprese nel terziario sono state aperte da giovani. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava e aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è ritornare ma come? Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre è: di fronte al rischio declino, l'Italia rivuole i suoi talenti ora all'estero o dice di rivolerli? Le mosse degli ultimi due governi vi convincono? Cosa fare di più? Cosa chiedete in tre concreti punti al sistema Italia per tornare? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.